Questa è la striscia del Svezia. Ahorre, no compre sin visitar Emporio. Now how fast we can go. Larry on. Why? And added that these are the facts as we know them. There is an epidemic of mass murder being committed by a virtual army of unidentified assassins. Dopo il fantastico successo delle ormai famose selezioni di musica presa bene, e dell'ancor più strepitoso successo delle selezioni di musica presa male e peggio, con orgoglio che vi presento la selezione musica presa male e anche a sfrullinate. White Zombie. Wanna try me? Thunder Kiss 65. E loro sono i Tool. Stickfest. Mm-hmm. erano i Tool. Adesso Nine Inch Nails. Il titolo del brano, Wish. Musica, musica, non parole. Attenzione, attenzione. Ministry. Fear Factory. Battle for Utopia. Rammstein. Al di là delle parole, Rammstein. Radio Forte, la radio mostruosa. Primus, Too Many Puppies. Too many puppies. I dreamed of killing the man, but the man wanting. erano i Primus, adesso Korn, Cammin Andando. Marilyn Manson. King Killer 33. Yourself. state ascoltando Radio Forte, la radio mostruosa. X di Holly. Loro sono i KMFDA. A Hole in the Wall. On your lips. Adesso è la volta degli Agnelli di Dio, Lamb of God, Requiem. Right. Questa è la striscia del Freccia. State ascoltando i Godflesh, Mortality Sorrow, musica, musica non parole. Adesso è la volta dei Lard Fork Boy. Whatever has the fork in hand, controls the field of its choice. e loro sono i Killing Joke, il brano Delete. E vi lascio con l'ultimo brano. It's not the red. Loro sono gli impronunciabili Estunzendelnebauer. Surprising stain. It's not the red of which we bleed. Sabrina. A red of Cabernet Sauvignon, a world of ruby, all in vain. It's not that red, it's not that red. It's not that red, it's not that red. It's not as golden as Zeus' famous shower. It does not at all. It's in the open, but it doesn't get stolen. It's not that gold. It's not as golden as memory or the age of the same name. It's not that gold. It's not that gold. It's not that gold. It's not gold at all. Bene, allora alla prossima e ricordate, le chiacchiere stanno a zero, musica, non parole. Bella, alla prossima. Ahorre, no compre sin visitar Emporio. No, how fast we can go. Larry on. Why? And added that these are the facts as we know them. There is an epidemic of mass murder being committed by a virtual army of unidentified assassins. State ascoltando Radio Forte, la radio mostruosa.